Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. A tutti voi, cari ascoltatori e gentili ascoltatrici, il nostro più affettuoso saluto, come ogni domenica, da parte di Gesi e di Antonio. Ciao Antonio. Ciao Gesi. Come stai? Bah, benissimo, grazie. Hai mangiato le castagne oggi? Bah, sì, non, senza esagerare naturalmente. Ah, hai bevuto anche il vino nuovo? Bah, no, mi accontento di quello vecchio. Ah, ti accontenti sì. Di quello vecchio. E insomma, no, ma adesso si sente tutto meno, le feste si sentono certo, meno. Anche, certo, è un segno dei tempi. Anche questa qui di San Martino si sente un pochino meno, vabbè, pazienza. Allora. Diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it, il numero di telefono per consigli, proposte e suggerimenti che è il 346 23 20 033. Ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione e senza dimenticare naturalmente un saluto al nostro regista. Ciao Eddie. Allora Antonio, prima di iniziare, prima di passare alla prima canzone, vorrei così leggere una poesia dedicata a San Martino. Mi pare duopo, come dicevano un tempo. Una poesia che penso che tantissimi conosceranno perché la si imparava a scuola, ma è sempre bella comunque. È di Giosuè Carducci. San Martino. La nebbia agli irti colli, piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini l'anime a rallegrar. Gira sul ceppo acceso, lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri, nel vespero migrar. Bello. Bene, adesso ci ascoltiamo la prima canzone. E siccome l'ospite virtuale, oggi avremo un ospite virtuale stasera, perché ci parlerà di San Martino, che è la signora Franca Turchetto di Venezia, e allora andiamo ad ascoltarci una canzone veneziana che è intitolata Acqua Alta ed è cantata da Umberto da Preda. Di novembre l'acqua cresce, tutti amoci andiamo qua, col vento del sirocco bevo il fuoco perché l'acqua regna su, chi tira su le braghe, chi cammina con le scarpe e calze in mano, e chi sta piante lì è il galenso da fare, galletto che gaeggia, coi carichi, tutto il resto in casina. Partiamo e acqua che caia e acqua che cresce, nessuno vuole lavorare. Partiamo e acqua che caia e acqua che cresce, coi cui a muoversi se va. I gruppi dei turisti, chi si diverte, tutto il vuol fotografare. I fiori fanno il casco e i professori in classe proprio noi che va. I putei si fissa addosso, ma non importa tanto, l'acqua porta il mare. 90-36, un ambo da rischiar, i vecchi so callotto, ma speranza di a pensione rotonda. Che cresce, poi pure a moglie se va. foglia e cade l'anfibio, ma c'è ancora da inventare. Anguo se bagna poco, bagneremo quel che già si avanza. Speriamo che domani si possa camminare e possa cambiare tutto, non bisogna mai a sto mondo disperare. Eccoci di nuovo in studio con la nostra ospite virtuale che è la signora Franca Turchetto. Ciao Franca. Buonasera. Buonasera a tutti e due. Bentornata. E ascoltatori, grazie. Ascolta, buon San Martin. Grazie. Buone fritto e non ne fai fritto, i maroni. Hai mangiato le castagne? No, perché sono dolci. Ho capito. Non posso, mi bionna che i peccati che non posso più fare. Non hai bevuto neanche un goccio di vino? No. Niente allora? No, mi che sta godrio San Martin che già da stemio. Ah, ho capito. Virtuosissima figliola. Dimmi tutto. Allora, tu oggi stasera ci parlerai di San Martino, no? Sì, una storia particolare perché penso che non tutti sappia quello che mi adesso vi spiego. Va bene. Mi auguro che sia di gradimento perché me lo istruio un cammino. Va bene, allora la parola a te. Va bene, grazie. Allora, cominciamo. Festa del San Martino, è una piccola premessa questa. Dunque, un tempo, qua a Venezia, nei case, giustamente, come chese, e a sera di San Martin si usava una gran allegria con maroni e vino, una volta, no adesso. Mm. Allora, noi cucinavamo i maroni su a farsora come che facciamo adesso, che sporchiamo tutto il forneo. Come fa adesso? Io facevo un fuoco grande perché che c'era i fogheri. Mi ricordo. Cucina, ecco, era un fuoco grande e metteva sti maroni su cenere calda, coperti così, a scottadeo e si sbicoava. Intanto che e fa mesi faceva sta roba qua, fora in strada si accompagnava sotto i balconi tre o quattro donne morbinose, che erano anche quelle che aveva la voce da becca, c'era questi due. Cosa hai detto? Morbinose? Che aveva morbina, allegre. Ah, ho capito. Allegre, no? Sì, sì. E cantava in una certa maniera sotto i balconi di sta gente che festeggiava. Allora, e diceva, questa sia sera bea che se sta in Canton del Fogo, qui maroni attorno e con bosson de vin, viva viva San Martin. Benedetto sia sto santo che ne viene una volta all'anno e col suo tabariel de pano, con una rosa de damaschin, viva viva San Martin. In sta casa che se de tutto, de saame, de parsuto, de formaggio piacentin, viva viva sto San Martin. San Martin, San Martineo, senza vin sul careteo, senza besi in sacchettin, viva viva San Martin. San Martin la manda qua perché ne fea carità, anche aiuto che ne aveva carità e il faceva. Se non aveva niente da darmi, disene onestamente che andiamo via di qua e che Dio vedaga sanità. Nel frattempo, benedetti quei penini che vien giù da sti scaini, e ne porta dei maroni, e ne porta i castagne, via se presto che avemo fame. E con questo ringraziamo, de buon animo, de buon cuore, e un altro anno torneremo se che piace il Signore. Se non arrivava niente, neanche giù di scaini, con chi benedetti petenini, che diceva, tanti ciodi che sei su sta porta, tanti diavoli che ve porta, tanti ciodi che sei su sto muro e tanti bruschi ve bene a. Ecco, questo è ringraziamento, ma è di sopra che non dava niente. Beh, qua ho finito con questa battuta spiritosa, insomma, dai, sì, adesso dai. Andiamo alle robe serie. Allora, adesso vi conto una breve storia di San Martin, che era un militare, un monaco, vescovo de Poitiers e patrono de Tours. Allora, sta ricorrenza religiosa gascavalcai antiche costumanze che trova le proprie raise nei riti pagani. Guarda quanto che torniamo in drion questa volta. Sì. Spesso e volentieri, con gran bevù e de vin e altri divertimenti abbastanza piccantini, cioè dei piccole orge erotiche. Ah. Secondo un studioso, si è adatto andare in drion nel tempo fin dell'antica Atene, ai culti dedicai al dio Baco, e alla festa dei popoli che dava il nome di Antestiria, che non so che festa che era. Però, a quanto ho capito, questa festa comprendeva diversi giorni di borie, di allegrie. Questa si chiamava Antestiria, però nei giorni che susseguiva, che ne c'era uno di questi tre giorni, e c'era chiamà pitigia. Sta parola vuol dire apertura della botte del vin. Pensa un po' come sì, se erano... Perché è praticata dai pagani presso poco nel giorno di San Martino. Cioè sta pitigia voleva dire spilare, cavare il tappo della botte. Ma pensa. E veniva fuori a spineo di vino. Spitigia. Pitigia, voleva dire spillare. Spillare. Tu lo sapevi che... Antonio? Come, scusa? Sapevi tu sta cosa? No. Ripeto. Sì, sì, no, no, non la conoscevo. Pitigia, sta parola significa apertura della botte del vin, praticata dai pagani presso poco nel giorno di San Martin, cioè vuol dire spillare o levare il tappo. Ti sai, botte chi ha quel coso? Sì, sì. E vuol dire che davano il candoin, praticamente. Che davano marteata al tappo e veniva fuori il vin, spillava il vino. Ecco, ma una considerazione. È il mondo di esternare la propria venerazione nei confronti di un santo così importante, nel giorno che a plebe beveva senza ritegno vin, nuovo co gran offesa del santo che guarda a caso era astinentissimo. Ma vada. Allora, che se una piccola nota, nel vedere una piccola pecora appena tosata, il vescovo de Tours el dice, essa ha compiuto il precetto del Vangelo, aveva due tuniche e ne ha donata una a chi non ne aveva. È così che dovete fare anche voi. Carità. Allora, Martin nasce tra il 316 e il 17, secondo gli storici, a Sabaria, nella provincia romana di Pannonia, che sarebbe l'Ungheria di adesso. Ma pensa. E a sua famiglia faceva parte dell'aristocrazia gallo-romana. E Azera naturalmente pagana. Il suo nome significa piccolo Marte, da a sua nascita in onore al dio della guerra. È probabile che suo padre sia stato un tribuno militare, che col tempo si è passato in guarnigione a Ticinum, l'odierna Pavia, dove Martin vive a sua fanciulla, ma dice che non vi sia niente a registrare il periodo della sua vita. Diventa grandetto un caiusse a ruola nella guardia imperiale, cioè una divisione a cavallo dell'esercito, questa guardia imperiale. E in questo periodo che a Amiens, in Francia, nasce e ha leggenda della divisione del Manteo, ed è questo vi dirò più avanti. Vabbè. Diversi storici ritengono che nell'esercito sia stato il tempo prescritto dei 25 anni. Passando appunto la maggior parte della sua vita a Amiens. Non si comportava più come tutti i suoi compagni, i camerati, che come ogni membro della Guardia Imperiale, più disponeva di un cavallo o anche a 12 volte, e di un servo, un schiavo, di un schiavo, che all'epoca era un essere spregevole, senza diritti, ma più lo trattava meglio di un fratello. E chiavava i pie e lo serviva durante i pasti. Pensa un po', aspetta Franca un attimo, scusa che adesso ci ascoltiamo la seconda canzone e poi continuiamo con la tua storia. Allora, la seconda canzone in programma è cantata da un gruppo, penso anni 60-70, anche perché... Non lo conoscevo tanto, neanche tu Antonio, vero? No, i Selvaggi, mi pare no. Appunto. Allora, dai Selvaggi ti ascoltiamo, Parlami sotto le stelle. Ciao. Ed eccoci di nuovo in studio con la nostra amica Franca, alla quale passiamo la parola. Sì, allora siamo arrivati che io chiamavo i pie e lo serviva in toa, no? Ti vedi che sì. Era anche... E mi pareva, sentendo questa storia qua, un altro Gesù Cristo, perché faceva le stesse robe di io. Te lo stavo dicendo anch'io. Sì, mi pareva sì. Sì. Allora dice che malgrado l'educazione pagana ricevuta dai genitori, e che aveva però io sentito fin da giovane età l'attrazione per il cristianesimo, e si era iscritto a 10 anni fra i catecumeni. E al sega istruio e il sega preparà al santo battiso all'età di 21 anni, perché una volta non si usava a battizzarsi, poi se avevi i genitori pagani battiso sì. C'era niente da fare. Dopo passa tutto questo periodo, insomma, su da sti catecumeni, scuola, un esercito, insomma, chi più che ne ga, più che ne metta sulla sta persona. Dopo essere stato congedato dall'esercito a 38 anni, grazie alla protezione di qualche santo che lo teneva di buon occhio, il fonda Ligugé, il più antico monastero europeo, dove ga verifica i suoi primi miracoli, perché si diventa anche un gran traumaturgo. E dopo dirò cosa che io faceva, miracoli a gogò. Cioè, questo monastero che io ga formà era un famoso monastero cenobitico, e si trovava a Marmoutier, sempre in Francia, penso. Sì, sì, sì. Era un centro di formazione per clerici e per monaci. E a sua fama si era sparpagnata tanto che da tutte le parti arrivava domande di iscrizione, cioè che c'era giovani che volevano iscriversi a questo monastero per imparare, insomma. El era tanto famoso per il suo stile de macho. El era un fusto. Anche quello. Sì. Hai sentito Antonio? Sì. Caro Antonio era un maccio. Bene. Dopo ti dico cos'è che era. Era un'eredità che ha avuto da carriera militare, e per la semplicità, cioè era un fusto, era una bella presenza fisica, però aveva anche l'umiltà, diremo, e la semplicità di operare al ben di Cristo, un santo che ha godesto di tanta popolarità per i suoi aspetti anche se inquietanti agli occhi di un semplice cristiano. Il culto che lui riceveva era degno da conquistare il titolo di divin. Dimostra in un canto di questua per San Martin da Ciosa, dove viene chiamato re divin. E vi ricordate tempo fa che sveniva il professor qui di Chiosa? Sì, bellemo, ecco, infatti Taio era considerato come un re. Re divino. Per ste robe, per ste... Sì, sì, sì. Ecco, attirà dalla fama della santità del vescovo Florio e si mette in viaggio per Poitiers. Poitiers. Con scopo di avere sto vescovo come istruttore maestro, lo deve imparare da questa persona. Sto vescovo lo riceve a brassi verti, col desiderio di ordinarlo diacono. Però Martin non gli va tanto, si sente indegno, e l'accetta solo l'ordine più semplice dell'esorcitato, perché io facevo anche l'esorcista. Pronto è rinuncia di tutte le esogie della terra. E viaggia dappertutto, su e giù, specialmente con una ferrea lotta contro gli eretici ariani, che non voleva sapergene del suo Dio. Per difendere la buona dottrina, Martin si sta castigato dai partigiani del dittatore Ario, così che ha dovuto scampare da dove casendà e tornarsene a Poitiers. Sto culto del santo scomincia dopo la sua morte, che è successa nell'8 novembre del 397 a Candes, dove a circa 80 anni era stata chiamata per mettere pace fra i clerici della parrocchia, per chi baruffava anche ori come chi baruffa adesso. Però faccio una considerazione, una volta dicono che la gente moriva presto, ma... È 80, sì, cioè io forse facevo bella vita. Longevità straordinaria, proprio. Sì, ma c'è cosa, perché viveva tanto in calaria aperta. Esattamente. Allora dice, insomma, che è morto, dove che abbiamo detto, è morto destirà su un letto di senare. perché sta Senere torna tanto presente su questa persona. È il giaracinto dal cilicio e con una ruvida coverta di peo de capra. Sì, perché facevano penitenza una volta. Sì. Però ecco, è il suo corpo, dopo morto, viene trasportato attraverso il fiume Loira. Verso allora, perché è il torna a turno, perché se è morto è il torna. E ora dice che fin dal concilio di Macon del 581 già era stato deciso che la sua festa sarebbe stata non lavorativa, ma festiva. E Carlo Magno decreta l'osservanza in tutto l'impero. Quindi una volta per San Martino si faceva vacanza, si faceva festa. Sì. Allora, dimmi. Adesso invece... Adesso cosa ti voglio? Adesso che si mangia i baby e basta. C'è chi che va perché non sei più come una volta. No, assolutamente. No. Una volta era una festa, ma era veramente... Sì, una volta c'era anche sentita, più allegria. No, ma che c'era anche tanta allegria più putei, perché fa mesi e festeggiava San Martino, ma era a casa sua. E fa mesi era grande una volta, non allargai come adesso, parentai. Patriarcali. Sì, allora, mi ricordo mia suocera, qua stava di casa, nella casa dove che abitava io, e che aveva una sorella e due cugnai, e che aveva una cugina grande, tre stue, tre fornei, però tre toe su un salon grande e tre camere. Perciò pensi, te 4-5 fiori per uomo, insomma, che era baldorie. C'era compagnia? Con poco si faceva tanto. Sì, voglio dire, c'era famiglia tanto, attaccai poi, c'era tanto, insomma, unie, dai. C'era il sorelle più grande che tendeva i picchi, che c'era zia, magari o vedova, o zitea, che dava un occhio a tutti quanti. Esatto, solidarietà. Ecco. Non soffrivano di solitudine? No, niente. No. Allora torniamo a sto benedetto morto. E viene trasportato ora a Tor. E so esequie, come sappiamo, e viene celebrato l'undese di novembre. Sì, di novembre, dai, sì, di ottobre, sono due mesi. Ah, si festeggia la sua morte, non la sua nascita. Sì, non la morte. Ho capito. Tra mezzo un mondo desente che era arrivata da ogni dove. Sta cerimonia era accompagnata da un corteo di 200 religiosi tra monaci e religiose, gente insomma che decesa, ecco. E a sua tomba diventa meta di pellegrinaggio, come quella di San Piero e Paolo a Roma. Però. O come adesso a Lourdes. Perché io, essendo traumaturgo, no, quando andavo in pellegrinaggio, nel Supercapolga istituì tanti monasteri, era il vescovo di monasteri, e aveva anche io il suo potion di magia, e aveva l'oggio benedetto per questo, e aveva la fiaetta che andava ben pastalto. Perciò ci vedi che... Una volta si curavano con tutte queste cose. Sì. Allora, anche in Italia si comincia a conoscerlo, tanto è vero che San Benedetto consacra a Martin l'antico tempio di Apollo sulla cima del Cassino, volendo morire nel suo oratorio. A Roma esista il primo martire venerà grazie a Papa Simmaco nel 498 che gli ha dedicato una basilica sull'Esquilinio, cioè l'attuale San Martino ai Monti. Ti vedi, insomma, sì, ma veramente. E nel Medioevo è da considerare il santo più popolare nell'Occidente, specialmente in Francia, dove più di 500 borghi e cittadine porta il suo nome solo là, perché dopo è andata dappertutto. Sì, perché anche qui abbiamo anche dei qua, santi. Certo, ma anche a me, anche qua. È era anche patrono della monarchia francese, ecco. Causa e a somantea, o quea che si ritiene sia stata... che cioè che sia e a sua diventata una sorta di palladio nazionale e conservata nella cappella, cioè nella chapelle reale, chiamata perché così è custodiva e celebre capa, dando voce al termine chaplain o chaplain. Cappellano. Ecco, che in origine significava custode della cappa. Ecco, da cosa deriva la parola cappellano? Da custode della cappa, proprio a cappa di San Martino. Anche qua che non impara una, no? Cioè, ma questa qua di Mantea, è tanto che insomma conosco questa storia. Sì. Perché io facevo parte addirittura su sue cose reali, ed era conservata nella Cappella Reale in Francia. Insomma, è stato un grande veramente. Dunque, El Gera, protettore dei soldai. Perché andava sempre a cavallo? Sì. Dei cavalieri viaggiatori. Elza era protettore de cosa, anche porca miseria, aspetta, non mi ricordo più cosa era il protettore. No, aspetta, Elza era protettore di sartori. Anche dei sarti? Sì, per via del Manteo. Dei sartori per via del Manteo, dei conciatori de peame per via della cintura. Dove c'era impirata la sua spada, che non era neanche una spada, c'era un gladio. Che da specie di romani, spada? I romani non aveva spade, aveva il gladio. Infatti c'è la poesia, proprio il gladiatore morente. Non mi ricordo più di chi è, ma comunque so dopo che... che aveva c'era dei fabbricanti di botte, per spiegare a che fare col vin, dei bevitori, dei viticoltori, che in occasione della sua festa... si beveva del buon vin e si godeva muchas schei vendendo caratei de vin. Nonostante l'astemio festeggiato. Ma io era stemio. Allora andiamo avanti. Come se che nasce, diremo, sta venerazione, sto culto di sto santo? E dice che i soresti mortai nasce dai pellegrinaggi sulla sottomba della Gran Basilica che viene costruita nell'arco di un secolo e che ha ospitato addirittura Clodoveo, re dei Franchi. Clodoveo, re dei Franchi. Sì. In lotta contro gli arani visigotti. Se ga ingrandio con un racconto di guarigione de centenera de mai, de sordi, de muti, de appestai, epilettici, gottosi, steri, soti, paraitici. Sì, ma tutto arriva. Sì, ma hai de cervello, hai agora e anche mal de pancia. Una potenza. Sì, una potenza, perché io mi prego come Gesù Cristo, cioè forse che a volte era più facile guarire queste robe, ti ha capito? Perché usavano tutte le erbe, certo, cose qui. Dopo dicono che c'è stanca esorcista, che sto esorcismo io che veniva attraverso la preghiera e penitenza, che il praticava a porte serai dentro il suo cesano. E era sempre avvolto da un cilicio, quel cordone che i frati. Sì, sì, quel no, cilicio, non è quella. No, non è quello che pose. No, il cilicio che adesso, il cordone che i frati, forse era più grossi, e si girava attorno, sì, perché sì, se si avvolgeva col cilicio. Io non è che se avesse flagellato o fatto torture. No, ma il cilicio mi pare che proprio lo portassero proprio sulla pelle. Sì, ma c'ho qua già da grando, c'ho avvolto. Sì, qua, sì, sì. Beh, insomma, che cavolo che c'era. Va bene, dai. Aspetta un attimo, Franca, che ci ascoltiamo un'altra canzone. Allora, la terza canzone in programma è cantata da Marco Masini ed è intitolata Ti innamorerai. Forse non di me, starai fermo lì e succederà da sé, da sé. Della libertà, degli amici tuoi, te ne fregherai quando ti innamorerai. Sarà bello da guardare come un poster di James Dean, sarà dolce la paura scanciandosi i blue jeans, sarà grande come il mare, sarà forte come un dio, sarà il primo vero amore, quello che non sono io. Via da me, volta dice no. Un ritardo di 6 giorni che non sai se dirlo a lui. Avrai voglia di pensarmi. Eccoci di nuovo in studio, sempre con la nostra Franca. La piccola parentesi, quando sì. Che io è morto, no? Tornevo un attimo in drio, che si sta al furto del suo corpo. Anche? Sì, perché a sua morte ha provocato una gran discussione tra gli abitanti, tra Poitiers e qui di Tours. Perché io era di tutte e due, era zio mio, zio tuo, zio mio, zio tuo, e a Barufa anche a... che riguarda appunto qua a città che avesse il diritto e sante spoglie. Allora, cosa che hai combinato? Gli abitanti di Tour i segari uniti di notte e i garobali l'inestinabile tesoro. E quelli di Poitiers sono stati rimasti senza? E quelli di Poitiers, sì, senza con ricordo, però si ha portato via, perché lui dice che era vescovo di Tour, perché si ha portato, hai fatto baruffe, gli ha fatto qualche sciopero, non so. Insomma, anche allora portavano via i corpi? Come, beh, quello sì. Come è successo mai buongiorno? Sì, sì, perché è sempre, anche se sul genere delle persone. Sì, sì, si ripetono le cose. Sto benedetto uomo è che viaggia tanto. Tanto, tanto e tanto, mi non so, va bene che c'era a cavallo, ma insomma, si è da fare. Io praticamente, c'è stato un periodo che si partito da Pannonia per tornare in Italia per convertire i suoi genitori. Sua mamma si riuscita, ma suo papà no, suo papà ha questo che sta pagando. Praticamente il suo viaggio ha durato 4 anni, insomma... Insomma, un viaggio a cavallo 4 anni. Sì, 4 anni. Mi pare che... Io ho attraversato le Alpi, il picco di San Bernardo, Aosta, poi si arriva a Miam, da qua si muove a nord-est attraversando Veneto, Friuli, Slovenia, Austria, per arrivare in Ungheria un'altra volta. E dopo varie battaglie contro l'eresia, il torna a Miam, e si ritira su un'isola che ha nome Gallinara, ma dopo riparte per Roma un'altra volta, perché c'era sempre dissidi tra i pagani, quello che non andava bene, non si trovava, insomma io a girare a mezza Europa. Perciò insomma 84 anni, molto sono 83, anni. E si meritai insomma. Insomma. E se ho ancora un po' di tempo, sì. Torniamo alla leggenda della cappa del suo manteo, parliamo di leggenda. E ora dice che a sua mantea veniva chiamata Clamide. Sì. Mi guarda il suo vocabolario, ma Clamide non mi dice niente. Non l'hai trovata. Va bene, no. Allora dice, ma a sua mantea sarebbe stato un ornamento militare puntata con una fibbia sulla spalla destra e era usato dai greghi e dai romani. Nella regione celtica si venerava un dio cavaliere che portava anche lui una mantea, compagna. Sto culto veniva da Pannonia, terra dei Celti e patria dei Martini. Ti vedi che sei... E questo mantello poi, la leggenda dice che è stato tagliato. Io ho sempre creduto che fosse stato tagliato verticalmente, invece... No. Allora, mica ho avuto modo di avere materiale, perché ho mi sta roba in casa, non curiva... Praticamente la mantea non era una manteina, era un manteo lungo come che avevi i legionari romani. Era un manteo lungo a roda, grande. In più era anche bianco, di una bianca, no, rossa, era di stana, di sta capra rossa, no. E era anche sua personale, non era quella dell'esercito. Io praticamente la gattagiata a metà in orizzontale, la gattagiata tutta la parte bassa, che ora se gai in particolare al puoletto, perché era bella larga, e io è a sua che si è stata fin giù di, fin diremo, da Drio. Sì, sì. Cioè, dopo... parte onga da, dal bacino ai piedi, da, dal puaretto. Sì, sì, da, dal e bacino in metà, su. Perché io, appunto, stamattina doveva essere fatta così, perché puntata sulla spalla destra, perché restava libera a mano sinistra, in caso, cioè a spalla destra, doveva restare libera, e a man per sguainare sta gladio. È gladio, non ti ha capito, per cui io questa mantella è lunga. Però dopo torniamo a un'altra leggenda che insomma è seria abbastanza vera. San Martino ha da che fare con l'oca. Anche con l'oca? Sì, perché oltretutto che era un cibo che si presentava nella stagione autunnale come tutte le altre robe, maroni, e zucchero, radicchio, tutte le verdure e aghe, c'era anche le oche. A parte l'episodio di quelle Campidoglio, anche queste che ha avuto da che fare con San Martino. Allora, in sto periodo, se dire il periodo dell'epoca, di certo, certo. E oche selvadeghe emigrava diventando preda facile per la cacciagione. Ma mi direi cosa c'è che ha a che fare con San Martino? E ora lo vediamo subito, perché veniva tutto collegato a una leggenda del santo, a una tradizione celtica, e torniamo ancora ai Celti. Gira, torniamo sì, sempre lì. La prima ipotesi pareria che fosse stasti animali a scovare qui su sighi strossai al posto, al posto dove si era sconto io, dentro una nicchia, una roccia, un fossato, non so dove cosa nascondersi, quando che non voleva diventare vescovo. Io non voleva diventare vescovo, come che diremo prima. Che e chissà voleva... perché non voleva diventare vescovo? Perché massa, forse carica massa, perché io si aveva dedicato appunto al ai catecumeni, perché c'era un'associazione, diremo una congregazione di persone che operava per la carità, volontariato, diremo come il volontariato di adesso. Io non voleva carica importante, doveva stare qui poveri. Quello era questo veramente un'eccezione a tanta sì, nobiltà e a tante gerarchie. Essendo che Calzera, quel Calzera, non voleva, ma invece i meriti li aveva e si sta eletto, insomma. Tanto è vero, insomma, che io si riuscì a scovarlo con qua, qua, qua, qua, qua, qua, e qua io gabbè qua, insomma. Scusa Franca, io vorrei dire una cosa. Dime. So se Antonio è d'accordo con me. Io penso che il volontariato di allora fosse molto diverso dal volontariato di adesso. Sì, presumibilmente, e ti vedi, sì, vedi che di fatti proprio ti dico, mi pareva Gesù Cristo. Allora, non era, ma l'oca, lo teniamo a verità, l'oca è azzera sacra ai Celti, come messaggera dell'altro mondo, e per sto motivo i Celti gli domestegava ed era sacre e intoccabili. Un po' come la mucca per gli indiani, ecco, diciamo. Ecco. Te oche accompagnavano nei santuari i pagani, i pellegrini, e più tardi, in epoca cristiana, una palma de oca sarebbe stata impitturata sul petto degli artesani nomadi dell'ancien regime, cioè del vecchio regime. Ah. Io dico, aveva come una stemma, come... Come stemma, sì. Che non sarebbe altro sto stemma di sta palma de oca, non sarebbe altro adesso nel cristianesimo, diremo, altro che a conchiglia dei pellegrini di Santiago a Compostela. Compostela, in origine c'era santuari celtici. Ti vedi come... Pensa come si ripete la storia. Come che torniamo in Drio. Sì. Ecco, e ora dice che il legame tra l'oca e Martin nasce in Francia fin dal 1700, quando si diffonde l'uso di festeggiare l'inizio dell'inverno mangiando oca come cibo augurale. Ma difatti qui è molto usato l'oca. Alle fiere l'oca col seno. Appunto, se perché se la tradizione te porta a San Martin per sto fatto qua. Ascolta Franca, da voi a Venezia è usata tanto? Che... No, da noi altri a Venezia adesso non credo, perché mi c'è tanti anni che manco, però con già Rotoseta mi ricordo appunto che battevamo San Martin come che se batte marzo. Andavo fuori anche a me con i miei amighetti e amighette a pestare bidoni, pignate, coverci, con cassioi, e andavamo a cantare San Martin andando in soffitta a trovare la novissa. Ah. E a novissa, no che c'era San Martin con cui partera. Perché lì a Marghera... lì a Marghera... Solite canzoncine irriverenti dell'infanzia. Ecco, ascolta, no, poi dopo, appunto, che c'era, come che ho detto prima, sui famigli si riuniva a queste donne, che c'era una che aveva la voce un fiantin più bellina e cominciava a cantare a strofa, no, re diceva... per esempio, Soradana è tanto bea che nel petto è ganastea. E con nostro sacchettin, cari signori di San Martin. E questi si cantava andando avanti, più che si ne inventava, e si batteva i coverci dei pignati. Ma no. Adesso che lo facciano ancora, vedi. Ma qualche puteo penso che lo facciano qua a Marghera, ciò che avevo mio nipote più piccolo, e gli faceva festa, veniva un cavaliere, un legionario proprio da Pannonia, col cavallo vero, con seccio in man che aveva artichiocchi e pomi, e gli dava i putei che dava da mangiare al cavallo, e dopo tutti i pasticceri della zona gli faceva un gran San Martino, ma grando, è bello. Che bello. Che... E dopo gli dà i maroni, gli dà tutto a gratis, che c'era il spillare il vino, che c'era il buttese di vino, e gli dava un tocco di questa pasta froia tutta lavorata con i cioccolatini e perline dorate a tutti quanti presenti. Per esempio a Venezia, mi ricordo i San Martini veniva fatti dai scaeteri. Da chi, scusa? Scaeteri veniva chiamato i pasticceri una volta a Venezia. Non vedeva pasticceri, era scritto scaleteri. Scaeteri, perché io li faceva di dolci proprio a forma di scaeta. Li faceva una scaeta di pasta froia e metteva in vetrina. E da Asia veniva il nome scaeteri, però io li faceva anche figure di... Non so se vi ricordi i biscottini piccinini che avevano forma di pesetti. Gli faceva anche allora donnine, diremmo, figure di donne, e che si stava vietare allora da Repubblica. I che vietasse figure, diremmo, femminili, e si stava scaete. Dopo io cominciavo a fare a stampo della medaglia, che avevi presente la medaglietta qui a piccinina della Madonna o di Sant'Antonio, sì, certo, certo. O rotonda o ovale, quelli di alluminio, sì, era, sì, esatto, esatto. Ecco, ora io rifacevo quel stampo o rotondo o oval de per segada, no de pasta froia, per segada, cioè con le pesche, cioè, no, ed era con il pomo cotogno, ah. E con il coso e aspetta, pomo cotogno e cosa è roba, cosa è mostarda. Io credo con la pesca. No, perché era ghezzera e a mostarda che non si appiccantine. Gli faceva il stampo proprio del cavaliere a cavallo, quello così, e torno che metteva tutte le baiette d'oro, dopo che metteva quei d'oro, non è cioccolata che fa adesso. Le baiette d'oro, tutto attorno a medaggetta, come stella Madonna, e incartava con una carta del cielo, fa con una stringa e toccava su di ciodetti sulle vetrine. E così dopo li vendevano? Li vendeva, certo, mi ricordo, certo. Che mi portava, e dopo io cominciavo a fare qui di pasta froia, io cominciavo a fare proprio il cavaliere, più presentabile, ecco. Qui fanno San Martino in pasta, non so di cosa sia, non so pasta che... Pasta froia. Pasta froia. Cioè, costa un sacco di skate. Sai cosa chi ha? Che io ricredo da vendere, che ne fa massa, perché adesso le donne si sono anche abituate, no, se compro un stampo, se fa pasta froia, io metto in forno, vi offro San Martino. Lo fanno, sì, sì. Cioè, adesso che metti i cioccolatini, che metti i smacks, che dovete ha. Caramelline, sì, non so, una volta che avevamo una frase noi altri che è stata anche stupida, quando che non si usavamo una volta come adesso festeggiare di compleanno con torte, con robe, ti dava un bonbon, qualcosa, una pastina e ti regalava, se già da tanto una volta, no? Sì. Parlo sempre adesso tante. C'è il regalino? Regaloni, che sei busta adesso. Sì. E mi ricordo quando che c'era un modo di dire, che diceva, ma queste gai regalà? E ora si rispondeva un cincimbon coi ae e un San Martino coi bae. Non l'avevo mai sentita. No. Allora, no. Sto cincimbon coi ae era un bonboncino talmente piccolo che spariva, svolava come ae. Sì. E un San Martino coi bae era proprio San Martino, sì, tu sì. Tornai con queste baette. No? Sì. Capito. Ci viene sei anni che ha sempre avuto qualcosa. Che dopo belle che... tradizioni. Ecco, esatto. Ma però si andava a spignattarsi. Quello sì che mi ricordo. Allora adesso noi ci sentiamo, sì. Un'altra canzone, poi proseguirai ancora, perché così facciamo la conclusione. Sì, va bene, adesso intanto ci ascoltiamo la quarta canzone in programma. Allora, nel 1984 a Sanremo è andato un cantante spagnolo, si chiama perché penso che sia ancora vivo, Luis Rodriguez, e lo chiama soprannominato El Puma, e si è presentato con una bella canzone, a me piace perlomeno, ed è intitolata Due come noi. Mio padre al sole vede, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai. Puoi correre o volare, amare più che puoi, ai sogni non dovrai rinunciare mai. Ragazza sconosciuta, seduta in fondo al bar, con l'aria un po' vissuta, è il trucco di una star. Ferita o non ferita, scommetto che lo sai, che ai sogni non potrai rinunciare mai. Se non è un canto di sirene la realtà, rischiando il cuore un'occasione nascerà. Due come noi, sia quel che sia, troveranno quello che per gli altri è una pazzia. Due come noi, che sanno vivere, ma non sanno vivere senza compagnia. Due come noi, sia quel che sia, ma stasera chi ci fermerà se tu sei mia? Prendiamo un aeroplano, è il primo che ci sia, e andiamo più lontano della malinconia. Ragazza sconosciuta, scommetto che lo sai, che ai sogni non potrai rinunciare mai. Se non è un canto di sirene la realtà, chi ama e sta rischiando il cuore non lo sa. Due come noi, troveranno quello che per gli altri è una pazzia. Due come noi, che sanno vivere, ma non sanno vivere senza compagnia. Ed eccoci di nuovo in studio per la tranche finale, diciamo, con la nostra amica Franca. Grazie. Alcuni minuti ancora di autonomia, ecco. Sì, grazie, massa buona. Stasera hai fatto tutta la trasmissione. Ah, grazie, molto. Ascolta, che era a Venezia una usanza nel Settecento, che mamme vestiva i putei o i putei con un camicione bianco e in testa gli metteva una corona di alloro, di avrano. De avrano, diremo. E sta usanza di sta veste bianca è se messa in questione, diremo, che è introdotta, era introdotta per indicare che San Martin, essendo catecumeno, e il gadonare a parte della sua veste al poveretto ignudo per coverselo, come che si usava, i catecumeni, come si usava, si metteva candide veste che si adornava prima di ricevere il santo battesimo, cioè ori del vestito bianco. Praticamente, Martin, sì. Cos'era catecumeno, sì. Cos'era che istruito per il battesimo, e portava queste candide veste bianche. Ah. Ecco, cos'era l'usanza che avevi i catecumeni prima di istruirsi per il battesimo. Per battesimo. E difatti, come simboleggianti dell'innocenza, della purificazione. Per le mamme di Venezia, una volta, il giorno di San Martino, gli vestiva questi putei con questo camisotto bianco, c'era stanca bello, insomma, camicione. Ma il bianco è sempre bello. Ecco, no, c'è un'altra usanza per ricordare. E proprio a Venezia, è il gavemo de, in antico, adesso ne fa più, Ghisede di Corenze su sto benedetto San Martino. Allora, a Venezia è il culto suo, il che ha in titolo a una chiesa, che è ancora parrocchiale, a Giovanna Venezia a Castello, sul sestiere di Castello, che è la chiesa di San Martino, e dopo una che ne è a Buram. E il Gera venerà, diremo, come patrono della scuola dei misuratori de Biade. Biada, quello che mangia dei cavalli, sì, no? Sì, Biade. E anche granaglia. Capito. Cereali vari. Cereali, sì, ecco. Sì. E protettore anche dell'esercito. Sta scuola è a Gera, situata vicino a Cesa, una scuola che fin dal 1300 è da movimento a una confraternita, perché c'era convento, Cesa, convento e confraternita, tutto attaccato a Venezia. Su queste costruzioni religiose c'era, e che si ancora, non so se si ancora conservai, dei resti mortali di Martin, perciò neanche che ne avevamo qualche tocco anche qua. Povero Martino. Allora, noi altri avevamo un osso di sua gamba, un tocco di femore, un'articolazione della mano, non so se è un erbo, un tendine, non so, e un scampo di atonega episcopale che io operava. Insomma, ecco. Ogni anno sto tocco di tibia veniva portato in processione dal posto dove Calzera, diremo, depositata, fin è accesa sua intitolata. E questo capitava con tutte e peso, diremo, giornate di intemperie tremende, che c'era vento, piova, caigo, neve acqua alta, sta processione veniva fatta comunque, sempre comunque. Questa cerimonia qua ha avuto momenti di crisi verso la fine del Settecento, non si sa perché, ma ripristinata dal Consiglio di Diese il 29 di novembre del 1715, rispettando l'antica pompa, perché una volta il lusso a Venezia chiamava pompa. Beh, anche adesso si dice pompa magna. Pompa magna, sì. Ecco, anche a descalzi e qui pie a moge. Perciò è stata fin dopo la caduta della Repubblica, perché... In più, che è un fatto queste processioni? Praticamente c'erano cavoli come tutti, insomma, da parrocchia a parrocchia, da chiesa a chiesa, che c'erano delle geosie. Succedeva, come che fai gli ebrei con altre cose religiose, che quando che si è messa da uno, gli fa che dispetti gli altri. Sì, sì, insomma. Sì. E se faceva dispetti in cavoli, tanto sapevo che a volte questa processione veniva fatta anche con quei barchi, si spostava tramite i rì, no? Perché magari che c'era acqua alta, ne prendeva. Se l'acqua era alta, ne passava, e ora qui questa trascesa era contenti perché la processione veniva sospesa. Se che c'era bassa marea, più contenti ancora, ora magari andava a pia, però c'era freddo. Insomma, che robe tremende. Però non sapevo che avevamo un osso, un deo, un tocco di vestito. E il resto dove saranno delle varie... Sì, si è divisi dappertutto. Per esempio, vai anche a Santa Lucia, neanche avevamo tutto il corpo intero. Sì. Però qualche tocco che ha detto che io vada a Siracusa, non so cosa è che ha da paurafia. E se anche sarà neanche un metro, sì. Una mummia. Era piccolina. Piccola, benedetta e a fantuina. Beh, era anche il bel vestitino rosso, dopo si sì, ha messo la maschera dorata perché era il viso. Insomma, ne parleremo per Santa Lucia. Sì, sì, ma ad ogni modo, insomma, Venezia per i salti, per appunto di salti, per queste robe, insomma, è sempre stata presente. Dopo seguo tempo, se non ha trovato ormai, siamo in addirittura d'arrivo, ancora qualche minuto per considerazioni, così sì. Campagne, nelle province, con che c'era queste feste qua, di richiamo, che c'era il famoso personaggio, il Toro Totella. Toro Totella, sì, anche a Treviso. Anche a Treviso, sì, esatto. Sì, anche a Juve veniva con il suo strumento, qua vacca, qua succa. Succa barucca. Sì, no, ma faceva cassa Cassarmonica. Cassarmonica, andava su il suo bastone, anche io. Un intrattenitore. Sì, e mi solto rotto te, mi solto rotto te, anche io cantava, e questi è di San Martino. Che vuol dire, tira? No, Toro Totella, mi ho avuto una descrizione dell'autrice, che messa a sillabe, te, go, rotto e atea. Ah, ecco, quindi una corruzione di questo. Corruzione, che vuole dire, siccome che io andava con i dobisacchi e se spai, certo, in tascapane, certo. Ora che già di fiori, che con le padrie e con il cortini che taggiava la stoffa della scassea, allora gli diceva, torota a te, torota a te. E io questo per assonanza, bisogna fare ecco, questo qua. Basta. Bene, ecco, siamo addirittura d'arrivo, è che è sempre una cosa estremamente interessante, perché se aneddoti e leggende, storie, sì, eccetera, sì, che si conosce assolutamente molto poco. Molto poco, però, sì, esatto. Difatti, che se altri studi, altre robe adesso. Ad ogni modo, ascoltami, spero di... Sei stata esauriente, molto esauriente. La storia seria è lunga, del modo mi ringrazio. No, ringraziamo te e ci sentiamo. Vi auguro buon San Martino. Grazie. Con dopo sogni di vino. Grazie. Anche se sei di Astemi, ecco, naturalmente, perché di Astemi credo sempre un pochetti, eccetera. E buon San Martino a tutti gli ascoltatori, chi si diverta. Grazie Franca, alla prossima volta. Grazie, ciao ciao. Allora Antonio. E niente, abbiamo esaurito anche questa festa autunnale praticamente, che è sempre un fascino straordinario, sì. Richiama sempre un passato che sembrava sepolto, sembrava così, e invece ogni tanto ritorna e così a chi l'ha vissuto almeno in parte, insomma, fa ricordare un sacco di cose. Sono sempre di queste, come posso dire, frammenti di realtà di un tempo che tornano prepotenti alla ribalta. Sono frammenti di vita passata, però che non ci sarebbe questa se non ci fosse stata quella. Esattamente. Ecco. Niente, non ci resta che salutare e ringraziare le ascoltatrici e gli ascoltatori. Bene, anch'io come sempre ringrazio e vi invito per domenica prossima, che abbiamo con noi il dottor Giuseppe Frigo, cardiologo, per cui se qualcuno volesse fare delle domande riguardo appunto la prevenzione dell'infarto, tutte queste cose che riguardano il cuore, può mandare un messaggio o una mail entro e non oltre giovedì giorno 15 qui in radio. Va bene, grazie e come sempre ciao ciao. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.